사Ombre nei miei sogni sfidano la gravità Mi tormentano i sensi di colpa Angeli e demoni si contendono la mia anima Ma se si aprisse il cielo in questo momento Guarderei negli occhi le mie falsità Ma nubi minacciose vedo all'orizzonte Come posso affrontare la realtà? Se vedessi il sole nascere dal mare Troverei coraggio nell'oscurità Ma onde imponenti adombrano il mio cielo Momento troverei la via del mio rito